Allora, parlerò del libro di Angela Volpini, Resurrezione di Dio, ne parlo un po' a modo libero, dopo l'incontro che abbiamo avuto con lei, e poi leggerò alcune parti. Allora, Angela Volpini, appunto, ha avuto questo incontro con Maria, un vero e proprio incontro, un'esperienza, e questa esperienza si è ripetuta numerose volte, e senza entrare nei dettagli. Ha avuto una comunicazione diretta, priva di parole all'inizio e poi con le parole dopo, in cui lei ha avuto come fosse, come quando metti una chiavetta nel computer, che il contenuto del computer può essere trasferito direttamente nella chiavetta senza nessuna parola, direttamente per via elettronica, insomma. E questo è avvenuto quando lei aveva 7 anni. E Maria poi si è presentata dicendo: io sono l'umanità realizzata. L'umanità realizzata, cioè dove l'umanità può arrivare. E il passo successivo ha detto: ogni essere umano può fare così, niente di speciale, è il compito di ogni essere umano. E Maria gli ha detto: ci sono due passaggi. Il primo è essere se stessi. Cioè conoscersi davvero, conoscere la propria vera natura, fino in fondo, senza mai cedere alle lusinghe del potere, cioè senza cedere alle definizioni che altri danno di te. Quindi richiede coraggio, richiede quella capacità di vedere chiaro. Quindi il punto di tutto, il punto centrale di questo messaggio è lo sviluppo della coscienza umana, che è una coscienza individuale. Per capire chi sono non me lo puoi dire tu, non me lo può dire un'autorità religiosa, posso capire da me. Io sono la persona che meglio di ogni altro può comprendersi perché mi appartengo, sono dentro di me. Il passo successivo è quello di decidere di esprimere nel mondo soltanto l'amore e nient'altro che l'amore, quindi senza mai cedere al potere. Ora, capite che questo messaggio è esattamente quello che stiamo dando dentro Aleph da tempo. C'è proprio un video che abbiamo messo su Arcoris in cui si dice appunto che gli esseri umani si esprimono su un asse in cui sulla sinistra abbiamo il potere, sull'altro lato abbiamo l'amore e ogni nostro atto comunicativo si pone su questo asse, o più verso il potere, più verso l'amore o nel centro, ma che soltanto un atto comunicativo che si fonda esclusivamente sull'amore è un atto autentico, cioè esprime davvero chi siamo. Perché tutto ciò che riguarda il potere invece esprime la separazione da noi stessi. Il potere nasce dal senso di separazione, bisogno di potere. Cioè mi sento separato dalla natura, mi sento separato dagli altri, mi sento separato dal mio corpo, mi sento separato dai sentimenti, mi sento separato dagli amici, dai figli, dai genitori, sento distanza e quindi questa distanza mi rende debole, indifeso, sento paura. La paura si rimedia come seguendo il libro che succede, per esempio il bel testo che è uscito recentemente, Il cervello del cuore, con le famose 3 P. La paura si supera con, appunto, con, anzi, scusa, la paura è una delle 3 P. La separazione genera paura, ricerca di potere e ricerca di piacere. Quindi nella nostra società, separata, in cui siamo individui separati, in lotta, senza rendercene conto continuamente, siamo preda di queste 3 P: paura, ricerca del potere, che poi è un potere controllo sulle cose, e ricerca del piacere, che è un piacere compensativo, compensativo al fatto che siamo vuoti di essere, ci siamo dimenticati di chi siamo. Allora, una mistica come Angela Volpini ci riporta alla realtà di che cos'è un essere umano. Un essere umano, in primo luogo, una coscienza. Una coscienza. Ricordiamoci cosa diceva Kant. Kant, che era un pietista, cioè che è una corrente del cristianesimo, che pone la carità al centro di tutto. E Kant diceva: due cose mi commuovono nel mondo. Il cielo stellato sopra di me e la coscienza morale dentro di me. Che per Kant è qualcosa di innato e di universale. Ok? Allora, il messaggio di Angela Volpini è molto forte, perché dice: qualunque centro di potere, per poterci dominare, ha bisogno di separarci dalla nostra coscienza. Se ci separiamo dalla nostra coscienza, noi diventiamo deboli, perché non siamo più noi stessi. Soltanto se siamo chi siamo, abbiamo forza, abbiamo capacità di amare e abbiamo humor, gioco, le tre energie archetipiche. Ma se siamo separati da noi stessi, è come ci avessero tagliato le gambe. Quante volte vi ho detto che il narcisismo imperante taglia le ali ai bambini, non li fa volare, perché li ferma. Quando proprio cominciano a decollare come esseri umani, l'educazione che noi diamo, senza rendercene conto, anche i migliori genitori spesso fanno così, è di tagliare queste alucce appena nate. E quindi poi, che cosa si dice? Che non vogliamo più, non vogliamo più dove? Nel cielo della consapevolezza. Quindi, e qui si apre tutta la tematica delle condizioni di amabilità, ci riceviamo questo messaggio: no, tu sei amato se sei così, se ti fai così, se non sei così. Quindi sono sempre, puoi essere amato se. E siccome l'amore, quando si è piccoli, è una condizione di sopravvivenza, alle condizioni di amabilità, poi sottostiamo da piccoli e poi tutto il resto della vita. Questa è l'origine del copione, poi. Del copione c'è che è la parte di noi che non è autentica. Essere davvero se stessi, come del resto dicevano i greci, gnosis auton, conosci te stesso, il primo passaggio. Essere davvero se stessi dà la forza. E lì, perché metti le radici in chi sei, altrimenti tu sei fuori di te, e non hai contatto con la forza, non sei più. Okay? Quindi, se noi vediamo come le religioni normalmente fanno, mettono Dio da qualche parte molto lontano, una gerarchia in mezzo che ti spiega cosa devi fare per poter contattare Dio, perché sono i mediatori, e poi tu, l'ultimo gradino, che sei indegno di sperare tramite gli insegnamenti della gerarchia di arrivare a capire la volontà di Dio. Dio che è un padrone e che domina il mondo, è potente, mentre tu sei l'ultima ruota del carro. Ecco, il messaggio invece che da Angela Volpini è diverso, perché dice che Dio è la forza che ha deciso di non praticare mai il potere, ma solo l'amore. Ecco perché Gesù è divino. De Gesù è un essere divino, è un uomo che si è divinizzato perché ha rinunciato sempre al potere dominio, non al potere dell'anima. Potere dell'anima è una cosa santa, potere dominio no, potere dominio è il male. A Gesù è divino perché in ogni atto della sua vita ha rinunciato al potere. È finito in croce perché ha rinunciato al potere. Allora, secondo la visione di Angela Volpini, Dio ha scelto nella sua creazione di creare un uomo libero, libero di scegliere tra il bene e il male, tra il potere e l'amore. E ha autolimitato se stesso perché può promuovere solo l'amore. Ma l'uomo può provare, provocare il potere, cercare il potere, la prevaricazione. Conseguentemente, la visione sua è che Dio ha bisogno dell'uomo perché la creazione vada avanti, cioè di un uomo che capisca il messaggio divino del portare l'amore sulla terra perché si compia questo progetto. Perché Dio non usa il potere, se no lo farebbe in un secondo, cioè un uomo, una persona onnipotente che volesse un mondo d'amore e usando il potere ci mette un secondo, taglia via tutti quelli che non lo usano e lascia solo quelli che lo usano, ci mette un attimo. No, il progetto divino nella visione della Volpini è questo, che Dio ha limitato, ha rinunciato al potere e ha lasciato all'uomo questa scelta. Quindi l'uomo è necessario alle realizzazioni di Dio. Capite che rivoluzione che è? Quindi non ha non è qualcosa di accessorio, è proprio centrale perché l'uomo è l'essere che sulla terra, sappiamo, almeno sulla terra, ha coscienza e può scegliere di indirizzarla verso l'amore, in questo modo divinizzandosi. In pratica il progetto divino si realizza quando ogni uomo si sarà divinizzato e quindi sulla terra non ci saranno più le cose che fanno soffrire tutti. Capite che questo messaggio è completamente diverso da quello che ci è stato tramandato attraverso il catechismo, attraverso la visione delle varie religioni che in qualche modo sono autoritarie. Perché quasi tutte le religioni praticamente praticano prevedono sempre qualcuno che si intrometta e che dica cosa l'uomo deve fare. Perché l'uomo si rende impotente staccandosi dalla sua coscienza, dopodiché continua a essere dipendente da chi? Da chi gli dà degli insegnamenti, da chi dà la cultura e così via. E questo è il messaggio fondamentale. Quindi diventare se stessi, essere chi si è davvero e scegliere la via dell'amore. E solo quella, rinunciando sempre, sempre, sempre al potere e dominio. Poi c'è una parte sul linguaggio che è straordinaria, perché dice: nel momento stesso in cui ci siamo staccati dalla nostra coscienza, quello che noi diciamo non è più roba nostra, non è più roba autentica, siamo parlati dal linguaggio. Conseguentemente le parole che usiamo sono suoni che non rispondono più a qualcosa che noi siamo, ma qualcosa che cerchiamo di manifestare fuori. Sono espressione della maschera, vedete in termini nostri. E le parole di maschera non fanno che produrre distanza tra gli esseri umani. Non è possibile. Quindi ecco perché c'è così tanta paura, perché quasi tutto il nostro linguaggio, praticamente tutto il nostro linguaggio, non sono parole che possiamo dire io sono la mia parola. Ma io uso la parola per dirti delle cose riguardanti qualche altra cosa. Quindi non comunico me stesso, ma comunico dei contenuti esterni. Il linguaggio è diventato linguaggio dei fatti, degli oggetti e non più della qualità relazionale. Però il divino è la qualità relazionale basata sull'amore, punto. E soltanto chi vive questo quotidianamente, tutto il giorno, le parole che gli escono sono espressione di chi è e delle relazioni che lui instaura con tutto ciò che c'è. Allora, questo è chiarissimo cosa vuol dire. E mentre nella visione tradizionale i santi sono una cosa lontanissima, Madonna, Gesù sono... No, ti dice, ma tutti avete questo potenziale e siete qui per questo. L'uomo può essere infinito, cioè avere un potenziale infinito, se fa questo passaggio, altrimenti è come se si tagliasse le gambe, le braccia, si accecasse, di fatto... La maggioranza degli uomini sembrano ciechi e sordi rispetto a ciò che è la realtà vera. Ora, interessante di tutto questo che avvenga in questo periodo, questo incontro, dove stiamo appena finiti di leggere in questo periodo il libro Cervello del Cuore, dove si dicono queste cose, cioè si dice che l'anatomia, la fisiologia del corpo umano è predisposta ormai per creare un uomo completamente nuovo, in cui l'amore è la sua pratica di vita quotidiana. E funziona così. Allora, ripeto molte volte questa metafora, se un gatto non riuscisse a salire su una seggiola, non riuscisse a correre, non sarebbe un gatto intero, sarebbe un gatto il cui sviluppo è stato fermato. E noi come esseri umani che non sappiamo vivere nell'amore, lo vediamo così difficile, siamo come gatti che siamo stati impediti, ci siamo impediti attraverso le pratiche del potere di sviluppare quello che non è il nostro potenziale del futuro, chissà quando verrà, c'è già l'anatomia, c'è già la fisiologia che prevede come può funzionare. Quindi oggi la sintesi che può essere fatta è una sintesi veramente grande tra la scienza, la spiritualità, la psicologia. Aleph è un ponte tra psicologia, psicoterapia, formazione e spiritualità. E quindi noi potremmo essere il passaggio, la sponda da cui partire per andare dove? Attraverso il ponte alla spiritualità. La spiritualità, questa come la descrive la Angela Volpini, è proprio esattamente quello che abbiamo intravisto noi nella nostra pratica, o che viene vista nel libro che parla di neuroscienze del cervello e del cuore, dove si dice soltanto siamo nella gratitudine e nelle qualità dell'essere, allora il nostro cuore come oscillatore è in grado di guidare tutta la nostra fisiologia, tutti i nostri organi interni, e quindi sviluppiamo un pensiero coerente, altrimenti noi abbiamo un pensiero incoerente. Da qui la molteplicità degli io, per cui un giorno la pensiamo in un modo, un altro giorno nell'altro, diciamo una parola, la neghiamo, promettiamo una cosa, la diciamo. Quindi noi possiamo diventare integri, fra un po' andiamo a fare mi piace molto che andremo fra poco a fare un incontro con il counselor di psicosintesi sul tema dell'integrità. Noi possiamo essere integri, è un solo condizione, che sia il centro del cuore che dà il tempo a tutto il resto. se il centro del cuore dal contempo tutto il resto, cosa succede? Che viene inibita l'amigdala e quindi tutti i sequestri emozionali di cui normalmente siamo continuamente, facciamo esperienza, perché la nostra percezione avviene su vie nuove, neurali nuove, cioè noi siamo davvero nella realtà del presente. E questo viene confermato dagli studi di biopsicologia, psicobiologia. Abbiamo passato alcune giornate con Rocco, che ha fatto 4 anni di psicobiologia, con Badar, con Semei, vari, in cui si chiarisce molto bene che cos'è. Che lì si parla di malattie, da dove vengono le malattie? Le malattie vengono quando la nostra psicologia non è in grado di gestire lo stress. Se questo supera la soglia per troppo tempo o in modo troppo acuto, si verificano malattie. Ma per superare lo stress non basta la psicologia dell'io. La psicologia dell'io è insufficiente, abbiamo bisogno di un io che si ispiri a qualcosa di più grande. E la bilancia strutturale in Aleph lo chiarisce bene, dobbiamo essere ispirati dall'anima. Ma l'anima cosa vuole? Vuole soltanto una cosa, l'interconnessione con tutte le altre anime e con tutto ciò che c'è. E chi è che è in grado dentro di noi di fare questo? Il centro del cuore. Quindi adesso abbiamo addirittura in casa, fra un po' possiamo fartelo provare, un apparecchio che ti indica il livello di integrazione che noi abbiamo al nostro interno, istante per istante, perché utilizzando un software che fa un calcolo sui battito cardiaco, se il battito cardiaco è regolare, come proprio preciso, quanto più è preciso il battito cardiaco, cioè proprio sincrono, è preciso, è a un tempo definito, tanto più può costituire l'oscillatore principale. Quello che sappiamo dalle neuroscienze è che credevamo prima che fosse il cervello il principale oscillatore, oggi sappiamo che il cuore è 60 volte più potente del cervello come oscillatore ed è in grado di imporre di come direttore a un'orchestra a suo tempo, e se fa questo il cervello si sincronizza, e se sincronizza il cervello l'amigdala, cioè le vecchie memorie, vengono disattivate. E quindi, perché capite, la tragedia dell'essere umano è che noi reagiamo a delle questioni relazionali come se fossero problematiche di aggressione fisica di un predatore, con la stessa intensità, perché l'amigdala ormai ha esteso le sue funzioni di sorveglianza, non più solo sul piano fisico, ma sul piano simbolico e relazionale. Conseguentemente, molte persone sono in preda a continue problematiche emotive, che poi rovinano le relazioni. Allora, il cervello del cuore può mantenere la direzione e portare quella che è l'intuizione diretta dalla realtà, ma bisogna che il cocchiere, che sappia guidare il cavallo, cioè che il cervello, la corteccia, abbia imparato come si fa a controllare l'amigdala. Quindi c'è tutto un sistema gerarchico, amigdala, mesencefalo da una parte, cervello arcaico, la corteccia e il centro del cuore. Fino a poco tempo fa credevamo che la corteccia fosse l'ultimo, fosse quello che deve guidare, oggi sappiamo che c'è un punto più alto. Ecco quindi che la corteccia rappresenta la psicologia e il centro del cuore rappresenta la spiritualità. Quindi oggi diciamo che abbiamo una serie di convergenze che sono formidabili. E quindi abbiamo un know-how anche che sappiamo come possiamo arrivare a sviluppare questa coerenza interna. Quando il pensiero è coerente si sviluppa creatività, visione, azione efficace, immediata percezione della realtà così com'è, e quindi noi come esseri umani diventiamo davvero efficaci nel mondo, altrimenti funzioniamo a un livello di comprensione della realtà molto molto basso, quello che gli orientali chiamano viviamo nell'illusione, cioè viviamo nel sonno che non è che una ripetizione degli schemi meccanici del passato. Allora quindi per questo che per noi siamo andati, una decina di noi, un gruppo nostro, siamo andati da Angela e ci siamo sentiti rinati da questo, perché Angela non è una persona che ha studiato queste cose sui libri, le ha percepite in modo diretto, in modo mistico, cioè in modo contatto diretto con la realtà più grande. E quando lei parla, non parla di che cose per sentito dire o per esperienze parziali, ma ne parla per un'esperienza di totale realizzazione come essere umano, perché lei ha potuto vivere nell'amore e nella gioia per tutta la sua vita. Sono 63 anni che è successo questo e lei è in quello stato, Ecco cosa significa una trasformazione personale. Mentre tutti noi oscilliamo, siamo in un modo, poi in un altro, in un modo, poi in un altro. Ecco, quanto più impariamo che questo è il centro di tutta la nostra esistenza, lo scopo dell'esistenza umana è questo, perché divinizzarsi non è qualcosa di riservato ai santi. È il compito di un essere umano. Quella gatta che sta mangiando lì ha realizzato se stessa come gatta. Noi come esseri umani no. Per cui da lì deriva l'infelicità di fondo che non potrà mai essere risolta se non si fa sto passaggio. Quindi l'illusione di trovare la soddisfazione in cose esterne, ma non ci potrà mai essere se non risolviamo questo tema di fondo, che è la conoscenza piena di noi stessi, nella piena fiducia di essere in un contesto dove non abbiamo nessuna paura ad avere. La paura nasce dal senso di separazione. Va bene, questo è il primo passaggio, poi vi leggo qualche parte del libro.